Sono le 18, oggi è venerdì 20 gennaio 2012. Buon ascolto! Marta Radio Roma ha il coraggio di presentare Ognuno con il proprio esercito. Condotto, scritto e ideato. Rento Gasperini. Radio Roma, nostra Radio Roma. Buonasera mister Rento, sta comodo lei? Mi sembra veramente comodo questa sera, si sta ancora sistemando sulla poltrona di questo stupendo studio. Buonasera. E ci troviamo per un nuovo, nuovissimo appuntamento per quello che riguarda questa rubrica pazza della Terra di Roma, ossia quella di programmare tutti i lunedì sera dalle 21 alle circa. Perché oggi abbiamo tardato 10 minuti alle 23, sì. Alle 23 qui su un'altra Radio Roma. Giusto il tempo di sistemarsi, poco un attimo. Giusto perché tutto il campo. Oggi abbiamo avuto abbastanza da fare su determinati discorsi, purtroppo sì. Abbiamo tutti noi delle vite che vanno avanti, malgrado tutto siamo qui. Sì. Bene, è il secondo appuntamento invece per quello che riguarda ognuno con il proprio esercito. Ognuno con il proprio esercito. Che ha avuto un notevole successo in passato nella prima trasmissione e noi ne siamo rimasti veramente contenti, vero mister Rento? Vabbè, contentissimi da questo punto di vista. Anche comunque oggi si sente l'assenza di Montagna Umana, il nostro assistente. Che salutiamo a letto, febbricitante. Febbricitante, ha detto. Sì, almeno così dice. Ma cioè, ma poi pazzo. Non ho capito, capo. Me la riservo, vabbè, niente. salutiamo Montagna Umana che è sempre nei nostri cuori. Dai, e prossimamente lo riavremo qui nei nostri studi. Silente, si spera che rimanga silente. Porello. Dai, rimettete a posto, dai, che ce la facciamo. Bene, nella prima puntata di Ognuno con il proprio esercito. Abbiamo cercato di spiegare qual era questa idea e lo rispieghiamo anche quest'oggi perché è passato circa un mese e mezzo. Con un nuovo argomento fresco. Esatto. Allora, al di là dell'argomento che snoccioleremo dopo, io direi invece di dire che cos'è questo programma, cioè su che cosa vuole basare l'idea questo programma. L'idea è sempre la stessa, è rappresentarsi all'interno di una società, rappresentarsi all'interno di sette note, rappresentarsi a camminare e ognuno indossare quello che è, la propria pelle e tutto quanto. Esatto. Senza aver paura di niente, senza aver dimostrato niente a nessuno. Fondamentalmente ci siamo sempre detti, no? Ma perché un artista si esprime utilizzando un genere musicale o uno strumento particolare? E la risposta forse è proprio in questa trasmissione. Cerchiamo di raccontarvi gli artisti attraverso la loro musica, la loro espressione. E fondamentalmente devono, come al solito, emozionarci su questa web radio. Che ne passa un'emozione forte. Esatto, deve darci un'emozione perché sennò che te passa a fa? Certo. Ma deve essere o positiva o negativa, non è detto che sia per forza positiva l'emozione, questo deve essere. Allora, infatti noi spiegheremo piano piano nel corso delle altre puntate se è nel modo positivo, il modo negativo, il modo folle, il modo senza senso, qualsiasi cacchio di modo. In prima trasmissione avevamo parlato della morte. Sì, in parte. In parte, così toccandolo su note cupe ma leggere. Quest'oggi parleremo di altro, ma non ve lo diciamo subito. Io la cosa che farei, se lei è d'accordo, Mr. Renzo, sì, è passare uno dei nostri artisti che abbiamo selezionato per questa serata. Sì. E soprattutto chi è, che cosa fa, da dove viene, ma perché l'hai portato? Allora, questo ragazzo di Crema, Deadly Opossum, che l'ho portato proprio apposta per l'intro perché mi sembra il cavallo di battaglia dell'argomento che andremo ad affrontare. Ah, quindi stai lanciando una sfida ai nostri ascoltatori? Sì, allora, se lo azzeccano, allora, entro loro. Tutti voi potete scrivere su Facebook, nella pagina dell'Altra Radio Roma, sì, qual è l'argomento di questa sera di Ognuno con il proprio esercito, se lo riuscite a capire attraverso questa canzone. Non ci scordiamo, perché questa è una piccola chicca sempre che rientra nell'argomento in sé per sé. Chi non vincerà? Chi vincerà? I primi che risponderanno esattamente sull'argomento, noi gli recapiteremo degli adesivi. Oh, sì, ecco, ok, l'idea. Dai, sì, facciamo così. Ragazzi, su Facebook, sulla pagina Altra Radio Roma, scrivete indovinare l'argomento di questa sera, che ci presenta quest'artista che si chiama Deadly Opossum di Crema, Tommaso Rei. Yes. Tanto una cosa per svegliarci proprio. Esatto, una cosetta, una cosa, sì, una cosa molto semplice, sì, breve, sì, veloce, leggera, di classe. No, la classe c'è, la classe c'è, c'è, la classe, sì, c'è. In 57 secondi lo mostro, ha raccontato qualcosa questo artista. Sì. C'è scritto qualcuno su Facebook, ragazzetto del Kentucky? Sì, adesso ve lo dico subito qua. Nel dentro la ricerca. Riascoltatelo. Giovanni è stato il primo a indovinare l'argomento di questa sera. Complimenti a Giovanni. Bravo Giovanni, San Giovanni! Riceveranno gli splendidi adesivi dell'Altra Radio. Ah, comunque anche il nostro amico Montagna Umana ci ha risposto adesso in questo momento. Che cosa ha scritto Montagna Umana? Ma quale silente, sempre più parte di voi vedrete, non mancherò. Bene, aspettiamo anche. E allora lui però vi dice, ha azzeccato con l'argomento. Questa è una dichiarazione di? Di amore. Di amore per quello che è questa radio. Yes! Perché l'amore che cos'è? L'amore penso che sia l'unica cosa che è formata da tante cose. Mentre gli altri sentimenti sono soltanto cose singole, come l'odio e l'odiare, cioè fare qualsiasi altra cosa e fare qualsiasi altra cosa, mentre invece l'amare è. Odiare, violentarsi. È gratuito, diceva qualcuno. Gratuito, non lo so. Non lo so, è complicato. Allora, per lei ha un sacrificio. No, non è. È la cosa più bella. La cosa più bella che ti può capitare, ma comunque. Se una cosa ti piace talmente. Se una cosa ti piace talmente tanto, devi starci attento a qualsiasi minimo particolare. Benissimo, Renton. Però quando le capita, che cosa succede? Lei riceve in dono, sì, una cosa bellissima che le stravolge la giornata, è, sì, felice, la cosa più bella del mondo, cioè, sì, sì. Ok, quindi è un dono, sì. Quindi non è un sacrificio dove uno poi, ma mica che stava di sacrificio, un sacrificio zero. E comunque può essere un dono dato da una persona, sì, da un essere vivente, faccio l'esempio di un animale, sì, anche una pianta, una bella pianta che ti curi. è una bella carta che ti dico. E poi devo pure lei. Che c'è? Lei ha pensato all'unica pianta che non stavo pensando io in questo momento. Ma perché io ho una radio di tossici? Allora, no, allora questa sera a farci compagnia un ottimo vino siciliano che impasta sì, gli argomenti da noi sviscerati in maniera forse dire egregia è sbagliato, ma sicuramente la musica ci aiuta a comprendere quale possono essere i percorsi mentali fisici e mentali. Parlando d'amore, io ho trovato un artista che distacca un po' dalle sue da questo artista che io vorrei definire come un urlatore cittadino dell'underground, quello che va, che strilla, nessuno lo ascolta, sì, è quello che ti sta dicendo le cose giuste, è quello che dice le cose vere, ok? Così abbiamo una particolarità di questa trasmissione, che io e Mr. Rento ci divertiamo a dare l'aggettivo, la definizione dell'artista che passiamo, certo. Viceversa di rispetto a chi l'ha presentato. Certo, okay. Certo. Comunque, questo invece è un artista che distacca, come le dicevo, da questo genere urlato. Ma l'amore abbiamo... anche questo non è fatto per sfumature, lo dicono tutti. E certo, andiamo su un aspetto un po' più danzato. Lui si chiama Cristian Battista e ci presenta un brano che si intitola Un amore, una storia, ed è remixato. Quando fai l'amore come sei, dolce come il miele più che mai. Dolce come il miele più che mai. Nei tuoi occhi non c'è amore, solo sesso senza cuore, che può darci solo immenso piacere. Le tue mani stringono il mio cuore, ma la notte prendono il suo amore. Come non ne ho viste mai, voglia di rischiare poi. Io mi sento maltrattato, in un angolo buttato. Tu mi getti, ma chi sei? Ma che fai? Donna un po' puttana, questo sei davvero? Non lo voglio questo amore, mi fa male solo al cuore. Io non voglio tutto questo, lo giuro. Se ti guardo sono imbarazzato. Vai da lui, dimentica il passato. Ora getto tutto via, colpa della mia pazzia. Io cercavo solo amore, mi regalavi il corpo, perché il cuore non ne ha. su un'altra Radio Roma. Fantastico, fantastico. Un po' Gigi D'Alessio. Sì. Un po' Gianni Marzullo. No, però la base è, cioè, la base è una bomba. No, la base è ottima, cioè, è la cosa che mi ha colpito di più, cioè, effettivamente è fatta bene, lavorata bene, ma anche il testo, cioè, per quanto può risultare banale, no, smirato, eccetera, fa parte di un underground, fa parte di un bel tot di persone, esatto, quindi è l'esercito, certo, è l'esercito di un altro esercito di quello che volevamo dire, insomma. esatto, e quindi ci stava in questo discorso di amore e pane e fantasia che affrontiamo benissimo questa sera. Bel fondo popolare, cioè quella la cosa che mi piace, proprio una persona che nasce proprio per me tra, è quel tipo di poesia che nasce proprio tra i muri della periferia, capito, di qualsiasi tipo di città. Ma è bello, è fantastico, no, perché sì, comunque sono cose che magari salvano anche da tante situazioni scomode, te possono far andare una vita tranquilla e va bene così. Va bene così. Ci piace proprio, Cristian. Ma lei non si ricorda Nino D'Angelo. Vabbè, no, aspetta, mo non mi ricordo Nino D'Angelo. Guarda, questo è proprio un argomento che non puoi affrontare in questo momento. Negli anni 80. L'hanno visti tutti. Negli anni 80 gli hanno anche remixato le canzoni, quindi facevano presto a poco come quella che stava ascoltando. Ma infatti, no, ma guarda, con Nino D'Angelo proprio tutti. Infatti saluto, visto che siamo anche nel momento, nella frase, nel periodo amore, saluto anche la mia bionda, via Mario Merola. Ma lei ogni puntata deve salutare la sua bionda. Vabbè, fammi salutare. Ma il telefono, rimanda un messaggio, ma devi usare la radio per i comodi tuoi. Va bene, scusa, io lo mando. Pure io dopo glielo mando la tua bionda. Allora, no, a parte scherzi, noi come chi sa che frequenta questa radio sa che ci divertiamo a insultare tutti quelli che conosciamo. Quindi, ah, vabbè, quello è quello massimo. Allora, lei dicevo, lei è pronto con un brano? Yes, pronto. Allora, lei prepari il brano, pronto. Io faccio così, okay. Abbasso la mia musica, mm-hmm, perché è il momento, come diceva qualcuno, è catartico. Anche. Lei prepari il suo brano, le leggo questa frase, lei lancia il brano, poi commentiamo sia l'artista che la frase. Perfetto. Lui è Oscar Wilde. Quando si è innamorati, si comincia sempre con l'ingannare se stessi e si finisce sempre con l'ingannare gli altri. Questo è ciò che il mondo chiama una storia d'amore. We're gonna have some fun. Girls are mine. Guess who I am? I'm Mr. Brown. rientriamo in diretta qui sull'Altra Radio Roma con questa nuova trasmissione di Ognuno con il proprio esercito. Lui era uno o erano tanti? Erano tanti, sono quattro. Come si chiamano? The Bank Rollers, un gruppo di Parma. L'album appena uscito nel 2011, mi sembra che era a novembre, sì. Dal titolo Go Bass Go, un EP di quattro tracce. Si definiscono radio di biciclette e la canzone si chiama Peter the Postman. Scelta apposta dell'argomento perché insomma bisogna sempre stare attenti. Peter the Postman, un rock underground anni 60, sì, 60 sì. A cavallo con i 70, una no? prima spuntata di vita. Una prima verniciata di... Sì, mi sembrava un gruppo molto ben assortito, cioè, musicalmente. L'amore è anche divertirsi, nel senso si diverte parecchio. Cioè, l'amore, se non c'è divertimento, non c'è. Quello no, non però essere. Il mondo, come diceva Oscar Wilde, chiama una storia d'amore. Chiama una storia d'amore l'ingannarsi e poi l'ingannare l'altro. Quindi di conseguenza poi vai a finire all'ingannare l'altro. Certo, è una conseguenza che. Guarda, per me sinceramente Oscar Wilde lo voleva dire nella maniera più cruda possibile, no? Perché comunque. Più globale. Quindi, cioè, se tu fotografi le situazioni dell'amore, della storia d'amore, poi lui scrive alla fine del 1800. Proprio a spiegarla a qualsiasi tipo di cielo, cioè sì. Nel senso. Dare una spiegazione netta. Lei consideri che in quel periodo lui frequentava l'alta borghesia inglese, certo. In quel periodo c'erano i matrimoni omosessuale, questo è a parte, anche perché se andessimo a leggere una sua poesia sull'amore ci verrebbe i brividi che partirebbero dall'alluce del piede per finire per i piumoni, per forza. Esatto, però in questo caso secondo me lui voleva essere provocatorio nei confronti di un mondo che necessariamente deve mascherarsi d'amore, certo. Mentre l'amore vero. Quello che vogliamo trattare noi, yes. È quell'amore spontaneo, genuino e tranquillo. Quello che l'amore non costruito sui palazzacci, esatto, proprio. non precostruito anzi lo dobbiamo mettere, ecco, nella chiave adesso moderna il codice scavaglio non prefabbricato, guarda, la voglio mettere più così, più naif, sì. Non graffito sui muri, ma più quasi come se fosse scalfito su qualcosa di inciso e non pitturato. Sì, però al di là di questo, oggi forse si usa appunto sistemi tipo network. Sì. Ma si incide il computer, il video del computer dell'amato? No, più che altro si fa stalking sul profilo dell'altro. Anche. Ah, anche. Ma leggevo giusto, sì, c'è un pensiero invece che parliamo da prima, cioè, prima uno si mandava le letterine, si faceva le cose, adesso per dirgli ogni che ne so che ce voglio ogni minuto di dirgli quanto gli va bene. Sì, comunque gli fa vedere che comunque sì, anche perché è un sistema gratuito, sì va benissimo, no? Come gli SMS che negli ultimi 10 anni hanno trasformato la vita della gente, il cellulare, no? Certo. Però io le dico, come i cellulari che hanno fatto scoprire il 10% dei tradimenti, leggevo un articolo, visto che parliamo d'amore, nel 2010 sono crollati il 30% dei rapporti di coppia grazie a al cellulare, a faccia buche, perché la gente pensava tranquillamente di poter fare con i buoni, però scoprono pure una cifra dei sozzoni, le schifi, le cose che non si dovrebbero fare. Sì, quello è un discorso è molto dannoso come strumento, per il povero Cristo che vuol tradire, che si mette su faccia buche e poi è scoperto dalla moglie, capisci, con me a casa tutto contento, no? Ho rimettiato una su faccia buche, Giuseppe che rimbocca, che scopre Maria di Fusco, esatto. Scadarca, Angelo Gabriele, esatto. Fantastico. E lui non, magari non se l'è nemmeno, come si dice in gergo, trombata, e la moglie comunque gli fa un culo così perché l'ha scoperto su faccia buche. Vabbè, ma quelle là sono cose che possono accadere, purtroppo. Allora, le volevo fare una sorpresa, caro mio amico Renton. Dica. Questo artista che lei ha passato effettivamente merita. Ah. Merita, e io vorrei stupirla. se posso, se ci provo, insomma, non è che io riesco. Lei sa che qui sull'Altra Radio Roma siamo sempre in cerca, no, di novità artistiche, gente che in qualche modo possa entusiasmarci, o gruppi, gente, o situazioni dove poter andare gente a tingere, che merita di essere sentita, qualsiasi tipo di persona. Esatto, attingere musica. Esiste un sito che si chiama Bandcamp. Bandcamp. Ok. È un sito molto grosso che tratta artisti tutti. Cioè, tutti gli artisti, internazionali, nel tutti, senso sì, sì, tutti gli artisti possono postare il proprio lavoro su questo sito. Però tutti, sia i SIAE sia non SIAE, ok? Quindi lei potrebbe trovare tranquillamente, se va su Bandcamp e scrive che ne so, un gruppo qua, io... ma pure personaggi simpatici, tipo, non mi viene in mente, però jazzisti, situazioni importanti, però che sono SIAE. Ma siccome la grossa forza di internet, delle web radio, del Creative Commons ha portato questi artisti a far due conti. Le nuove radio pirate, no? Che stanno a mezzo alla strada. Ma dove fare due conti con delle realtà? Hanno deciso alcuni artisti di poter far scaricare un brano di un lavoro. Ivan Segreto magari su un lavoro ti fa scaricare un brano, e quel brano che tu puoi scaricare diventa automaticamente Creative Commons, perché è scaricabile, perché è free, ok, non è scaricato illegalmente, o scaricato tutto l'album, invece magari è SIAE. Poi ci sono solo artisti che decidono di utilizzare questo sistema per pubblicizzare i propri lavori e sono Creative Commons, come certo, quindi... ad esempio i German Band che abbiamo intervistato qui su un'altra di Roma, loro vendono da questo sito, si chiama Bandcamp. E ho raccolto tre artisti che questa sera le presenterò da questo sito. Ah, perfetto. Questi stiamo artisti... parlando anche dei gruppi che non sono italiani? Questi sono italiani. Ah, da dove? Di questo non posso dirglielo. Di questo gruppo qui non lo posso dire perché dai, non ero dalla Transilvania. No, questo si chiama, sono un trio. Si chiamano i BDA, ossia i bambini dell'asilo. Ah, posso assicurarle che sono tre. Potrebbero, secondo me, migliorarsi, ma vanno ascoltati adeguatamente. Il brano che le ho portato questa sera qui per lei e per i nostri amici si chiama Reggimi. Loro sono i bambini dell'asilo. Voi siete su un'altra radio Roma. Bye. pubblicano questo lavoro nel 1998. Bella annata. Lo trovate, ripeto, su Bandcamp. Loro effettivamente non sono un gruppo Creative Commons, ma permettono lo scarico di questa opera e l'ascolto gratuito. Quindi di conseguenza noi dell'Arte Radio Roma, che sponsorizziamo questo tipo di musica, lo possiamo fare. Tanto questo tipo di musica. Dicevo, sono un trio, io non so se ultimamente stanno suonando insieme oppure no, però non ci interessa. Non ci interessa perché il pezzo meritava lo stesso. Sono Pablo, voce e chitarra. Sì. Ernesto alla batteria, mentre Roberto al basso. Questo gruppo fa parte del trio dei gruppi che le presenterò da questo sito. E questo mi è piaciuto molto, mi ha dato proprio l'idea del ragazzetto innamorato che scrive, che se ne sta a letto e scrive una bella canzoncina e c'è bisogno di cantarla così, comunque senza essere intonata, senza tirare fuori chissà che cosa, proprio semplice e tranquillo, molto molto molto bene. Anno poi 98, cioè nel senso sembra che la voce esca dalla chitarra, cioè la voce esca tranquillamente dalla chitarra, cioè non è la chitarra che poi sopra ci deve mettere la voce e fare chissà che. Sì, cioè, sì, esce proprio da sé, tranquillamente, sì, così. Beh, è un gruppo che funziona in qualche modo, sì. Secondo me, se si sono fermati peggio per loro. Ci piace molto molto molto, guarda, ti dico la sincera verità. Comunque. Andando avanti su questi suoni, sì. Lei ci presenta. Allora, io vi presento un brano di un gruppo che abbiamo anche ascoltato l'ultima volta, sì, che si chiama I Mostri, gruppo i nostri amici, i mostri che spaventano mostri. Che spaventano tutti i bambini. Nel visto senso che dopo i bambini dell'asilo, se li vuoi calmare, gli metti davanti i mostri e si calmano tutti i bambini. Vabbè, però cavolo, cioè è brutto così, dai. Ho capito, lei mi mette i mostri dopo i bambini dell'asilo, scusi, andiamo a dire fuori lei. Ma anche quella, amore? Sì, dai, è una cosa che comunque si fanno. Magari si abbracciano, fanno tutto quanto. Cioè, allora, la cosa è questa qui. Questo gruppo romano, che insomma abbiamo capito che fa un tipo di musica, ti fa sentire come se fosse a Brick Lane, no? Nel yes. senso, cioè, te ne stai molto tranquilla con la tua Fred Perry, con tutto quanto quello là che bisogna avere nel vestiario per essere un bel ragazzetto. E in poche parole, ti innamori di una ragazza, gli dedichi una canzone e pensi che anche se sei negli anni 10 e sono tutti infelici non te ne importa niente perché te stai con lei. Quindi mostri Camilla e let's go. Let's go, let's go, let's go. Nastra Radio Roma.org. Yeah. Camilla, Camilla, Camilla, i mostri ci piacciono veramente, veramente tanto, gruppo di Roma, ricordiamolo, freschi, cioè nel senso freschi, sono quasi in odore di album, insomma aspettiamo volentieri. Allora facciamo così, lei che conosce i signori mostri. Sì, okay. Sì, che a noi piacciono molto, perché diciamolo, cioè i mostri sono un bel gruppetto, sì. Li ha portati in qualche modo lei in radio, e io e Mr. Cocot abbiamo detto, è stato il primo cazzo gruppo. Sì, questo gruppo è stato il primo bravo, dai, su, passiamolo dai fornelli al microfono. E a quel punto lei, da semplice operaio, è diventato specializzato in operaio. Come scopritore. Operaio speciale. E a noi sono piaciuto. Boh, parti scherzi. Sì. Voglio dimostrare un gesto d'amore. Noi dell'altra radio Roma, siccome ci piacciono i mostri, per fare l'album lei li contatta e noi li intervistiamo. Questa radio li intervistiamo. Io e Mr. Cocot ci mettiamo uno qui e uno lì. E fate fare figure di merda a me. E gli spacchiamo il culo come a tutti gli artisti. Perché ci piace così. Allora, sono un bel gruppo, devo dire che Camilla rientrava perfettamente va bene nell'argomento, dai. Mi sto dicendo io, rientrava perfettamente nell'argomento che stiamo trattando questa sera. Sono un gruppo veramente notevole e io continuo a dirle che la musica che lei porta a me non dispiace. Alleluia, alleluia. Ma presento questo gruppo. Vado su un altro sito, si chiama Free Music Archive. E loro cantano, le anticipo questo, a cappella. Un jazz un po' particolare, perché è fatto con la voce. Si chiamano Bacco e Baccanais. E il titolo del brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Motel. Buon ascolto, lascio la Roma. Ci rotoliamo sulla moquette e ci perdiamo nel frigo bar. Illuminiamo con la bajou i corridoi di questo motel. Sono un uomo disonesto, troppo fermo a causa dei locali. Don't be Lei si è mai chiesto perché le mieritrici esistono? Le mignotte. Ah, le mignotte, vabbè, le mignotte. Si chiamano mieritrici, voglio usare tali. Oh, Italia, più, è giusto, più, è giusto, io picco su cioè, questo. Allora, voglio dire, se la mieritrice, perché la mieritrice... Sì, ho capito la postura, a parte le stupidaggini, se la mieritrice esiste, non esiste per colui che ha le donne. Purtroppo amare non vuol dire piacere, eh? È questa la grande differenza. La gente lo ha capito. Però anche quello è amore. Anche quello è amore. Certo, poi ci hanno scritto e fatto anche 10.000 firme su sta cosa. Anche quello è amore. Anche quello là va bene. È con giusto, questi capelli mi ricorda un cantante degli anni 90. Che? Poi gli dico chi è. Ah, vabbè, in privato. Sì, in privé. Ok. Sì, quindi lei che conosce perfettamente i cantanti che fanno musica a cappella, sì, ci presenta? Un altro gruppo che insomma a cappella c'è poco niente, insomma, 00. Sono qua sempre un gruppo di Roma che si chiama Carmagun. Sono stati in attività dal 97 fino al 2000. L'album appunto dal titolo Carmagun, Independent Alone, è una descrizione di un amore adolescenziale, insomma, cioè che è quell'amore fatto di litigare che poi dice, cioè, qualunque cosa è successo, si cerca di andare avanti. Quindi, whatever happened to Carmagun, qui su un'altra Radio Roma, dove noi raccontiamo l'amore. Cosa ce ne dice di questo gruppetto? Un bel gruppo. Un peccato, no? Un peccato che hanno finito così presto, insomma. Sì, un peccato. Cioè, se hanno terminato così presto, un motivo ci sarà. Comunque stavo leggendo anche perché non me l'ero appuntato, e di questo me ne dispiaccio. e non lo faccia mai più. Che questo gruppo, quando si sono sciolti nel 2000, poi ognuno ha fatto dei gruppi da sé. Ah, capito? Quindi sono fatti 3 anni di attività, si sono fatti comunque il loro album, che si trova sempre su Giamendo. E niente, sono arrivati a farsi un altro bel gruppettino, ognuno singolo. Comunque non e è questo male. È interessante anche perché assomiglia molto, insomma, al lavoro adolescenziale, no? Nel senso, no, adesso per carità non voglio dire l'età, non voglio dimostrare l'età neanche qui in radio, però nel senso, io alla mia età da adolescente, se provavo un qualche cosa anche per una ragazza, lo vedevo molto così, cioè nel senso, io sono figlio purtroppo di un punk californiano, non di un punk inglese, quindi stiamo a parlare di Dead Kennedys, Blink 182, cioè comunque Offspring agli inizi, cioè faccio parte di un'altra generazione, parte di una grande generazione, nel senso, io mi ispiro a quelli, però è una sorta di punk che fa parte del punk, cioè il punk come tutti i generi, la trasformazione del punk è diventato poi punk, non ne voglio dire neo melodico, però insomma punk è più un brillantino al posto dello spike, ecco, si potrebbe fare come meno strillato e più armonico. Meno strillato e più armonico. Così. Però lei invece di avventurarsi così, io capisco che lei ha fantasia, apra punk e legga. Lo so, ma infatti me l'ha regalato qualcuno. E questo gruppo. Sì. Sempre da Bandcamp. Mm-hmm. Lei se la seconda, si vuole è la seconda scelta, insomma. Quindi vuol dire che l'ultima avrà tenuto la chicca. Beh, non voglio fare una classifica, però diciamo che questo sicuramente, forse di tre, è il gruppo che mi piace di più. Oh, ok. Allora okay. Qua c'è un gusto personale. Sì. Loro si chiamano i aspetti, che mi sto incastrando. Sì. I Divino. Però levando le i, quindi diventa D-V-N-O. E leggo direttamente dal loro sito. Ok. Davano del vino divino ieri sera nel ristorante Divano, disse Domi seduto comodamente in un divano. Masseo capì, perché non creiamo noi un duo, un progetto musicale che unisce l'elettronica al rock e vada alla ricerca delle sonorità alternative da proporre al grande pubblico, potremmo chiamarlo DVNO? E la risposta è: ci sto, cazzo! No, e questo è il gruppo che io voglio parlare e presentare questa sera. Con questa bella promessa voglio proprio vuole sentire. Godere, sì, ascolti. Sì. You found the sceso, dandoti il braccio a meno un milione di scale. E ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale donandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te ho sceso perché sapevo che di noi due le sole vere pupille sarebbero tanto offuscate. Erano le tue, Eugenio Montale. Fantastici questi gruppi, ragazzi. Cioè, voglio dire, ma vi rendete conto? La quale tirato fuori dal cilindro, tirato fuori anche dal cilindro l'ottima, l'ottima poesia. Ci stava tutto, ci stava. È nata così, spontanea. Sì, sì, come stiamo dicendo anche prima, però anche se uno non apprezza l'artista, comunque quando uno scrive delle cose notevoli, ci stanno bene. No, le spiego, perché a un certo punto lui dice, leggo questa cosa di questo, ho fatto, a me l'artista mi sta un po' sulle palle, però è un preconcetto, quindi puoi pure leggerla, perché poi alla fine non è importante chi la scrive, ma è il messaggio. Certo. Poi se chi la scrive è un bel personaggio, ancora meglio. Cioè, perché no? Perché escludere a preconcetto e a prescindere? No, allora che può fa? Beh, questo qua comunque era un bel modo per fare amore, no? Porco, ci piaceva, no? Però poi manca una parte. Manca l'atto finale. L'aver perso il cioè ci dopo. Sta bene come inizio, tutto perfetto, sul letto. Vabbè, ci si arrotola. Ci si arrotola, comincia a toccarti. Sì, sì, ci sta giusto, ci sta. Però poi manca la parte finale, tipo un bel pezzo di quelli che. Sì, di quelli. Che dici, c'è sta tutto. Tipo danno. Una cosa che sia un. Forse io vorrei azzardarmi dicendo questa cosa qui, che secondo me ci sta, perché per me ci sta. Poi, sta bene? Poi se non ci sta bene. Circolo sanguigno? Sì, perché ascolti. Un bel ritorno di sangue al cuore. Ascolti, l'album si intitola Love di questo gruppo. Oh, quindi. Già ci sta nel titolo dell'album. Vabbè. Però poi uno con Love si riempie le parole, poi la bocca, no? E poi pensa, chissà, pensa magari. No, vabbè, te lo dico dopo. Lo dica dopo. Il gruppo si intitola Mondi Fu. Sì. Il brano si intitola Run Baby Run. Ah. Ci potrebbe essere nella continuazione del discorso che avevamo intrapreso io e lei, no? Cioè l'atto iniziale, il corteggiamento, adesso ci sta tutto l'atto sessuale. L'atto di run proprio. Sì, sì, run. Run baby run. Run Baby Run su un'altra radio Roma, ragazzi. Run sì, correva abbastanza, scorreva, vanno. Anche questo qua comunque restava sempre sul bel team, insomma, come anche ci ha suggerito, anche come ci ha suggerito un nostro amico, un nostro fan su Mille Mix, dove si può seguire la diretta di un'altra radio Roma. Anche questo è un run team, un altro team, run team, ci sta, sì. Ci sta proprio perfetto, guarda. Secondo me sì, niente male. Continuate a scriverci, scusateci se ogni tanto vi perdiamo, ma stiamo cercando di improvvisare, poi anche perché noi non siamo abituati in questa radio a raccontare i fatti nostri, ma diciamo che fondamentalmente no, cioè oggi avevamo motivi per far saltare la diretta e non l'abbiamo fatto, siamo qui e proprio perché per un gesto d'amore nei confronti dell'amore stesso, sì. Dell'amore che ci spinge a fare certe scelte, no? Andare verso alcune persone, andare contro la razionalità in sé per sé, esatto, e cercare di seguire un istinto che già sai anche a prescindere qualche dolo ti lascia, sì. Però poi lo vuoi cavalcare come un'onda, no? Come il surfista che spera che arriva l'onda più grossa e mentre arriva hai paura, però poi hai voglia di cavalcarla, no? C'ha voglia di magari anche di finire lì, però almeno la finisci bene. Sì, dice, cioè, la faccio eroicamente. La finisci come si deve, insomma. Un giorno da leone con poi un break pure mischiato, sì. Ce lo buttiamo là. Cioè, sì. Fantastico. Sì. Fantastico. È un giorno da leone. Però oggi è mercoledì da leone. Era mercoledì. Sì, abbiamo vinciato. Allora, il pezzo che volevo passare. Sì. Comunque, allora, il gruppo si chiama Collective Unconscious. Sì. L'album è un album omonimo, appunto. È un gruppo romano. La canzone si chiama Poor Cradle. E il cantante ha un nome particolare perché è di origine ungherese. Si chiama Simon Fletcher. Detto Simon Little Fletcher. E questi sono i Collective Unconscious, Poor Cradle. E se poi ti capita di aspettare pure sotto la pioggia, non c'è proprio niente, devi aspettare. Thank you. Collective Unconscious, Pur Cradle. Questa era un pochettino un po' più, come si dice, masochista. Un po'. Giusto poco, giusto il tempo di capire qual è. Giusto qual è il tempo di capire qual è il nesso tra l'aspettare una qualsiasi cosa, però almeno aspettare qualche cosa, se no insomma l'amore stiamo proprio come le X sui quadretti. Allora, mi raccomando, ricordatevi di fare il like su 1000 Mics come votazione per radio, in modo per questo gruppo a me non è dispiaciuto. Non è questo male, gruppo però, non è male, ha una bella voce, è ancora una bella voce, è ancora in attività, è un gruppetto comunque del 2007, quattro nell'arrangiamento, fatto bene, insomma, sì. Sarebbe gli sprovveduti. Sì, no, nulla no, improvvisato. No. È una musica studiata, nel senso io li ho scelti, cioè nel senso mi sono piaciuti perché ho notato come una cosa tra le righe, no? Un piccolo racconto, cioè nel senso una canzone del genere te lo può fare un piccolo racconto, no? Te lo può ricordare qualche cosa, no? O ti può far venire in mente qualcosa nel momento stesso in cui l'ascolti. Cioè, è anche quello purtroppo, è tanto quello, però a parte già dal nome Collective Unconscious, cioè coscienza collettiva, cioè, ti dà già quel senso di perdizione, no? Sì, infatti sono un po' paraculi, ricordiamo anche sempre questo gruppo della città di... Bravissimo, un'altra radio Roma proprio. No, Roma in generale. Roma, penso Roma. Ma ormai è inutile che insiste, lo sanno tutti, anche all'estero. Lei dice Roma, chi è Roma? E ti dicono, tu fai un'altra radio Roma, a Roma. Capito? No, vabbè. Comunque, io sono in ansia, ho la sudarella, ho contato i minuti per arrivare a un momento importante. Allora, io voglio il momento importante, visto che sono un amante dell'amore, voglio questo momento tutto per me. Sì, però per permettere, intanto devo fare due operazioni. Sì, allora, nel frattempo che Mr. Gasparino fa queste due operazioni. La prima era questa, la seconda mi devo schiarire la voce, quindi come tutti quelli che sanno che mi seguono, brindo a tutti i nostri ascoltatori con un ottimo rosso questa sera. Adesso facciamo anche sentire, va? Che abbasso il volume, vorrei fare le cose. Ho capito, però. Venga. Mazzia, se sentivo bene. Mazzia, abbastanza. Beh, chi vuole brindare con noi, tutto quanto. E quindi beviamo. Sì, brindiamo. Passo la musica perché voglio dire deve essere seria, è ufficiale, ufficiosa, è pompa magna, basta addirittura la musica che ci tieni. Bisogna, io raramente parlo sul bianco, lo faccio apposta perché voglio attirare l'attenzione su quello che voglio dire. Ok. E non voglio che la gente si distragga con questo stupendo gruppo. Allora, sì. MTV. Oh, MTV, attenzione, da noi viene considerato un ottimo canale musicale. Sì, beh, l'è sempre stato, comunque. Stato anche adesso, certo uno lo segue di meno quando cresce, ma io quando ero adolescente MTV stava alla prima cosa, cioè, e mi ricordo che mandavano già i video belli, vecchi, sì, che erano i più belli. Noi venivamo da quelli ancora primi, sì, tipo sì. DJ Television, sì, ancora sì, prima. Sì, sì, sì. Piccola curiosità, sì. Lo sa perché i brani ultimamente durano dai 3 minuti ai 4 minuti e un quarto, non di più? No, però nel senso, cioè, adesso che mi dice questa cosa, ho sempre pensato che i brani degli anni prima erano più lunghi. Negli anni 70 c'era Pink Floyd che faceva canzoni di 20 minuti, e allora erano estremo. Poi potevi trovare un Battiato che te li faceva di 7 minuti tranquillamente. Anche. Sei un Dalla. Sì. Stare a anche casa Velvet Underground, cioè, sì, che sì, avevano sì, anche 6-7 minuti. L'aspetto dell'alternative rock, sì, italiano, che il prog italiano ha insegnato. Genialità, insomma. Sì, Banco, sì, quello che ti viene in mente. MTV che raccoglie, no, le esperienze musicali, quelle più famose, quelle punta, migliori, sa dove puntare, punta anche verso le esperienze nuove. Certo, sugli artisti che escono nuovamente, eccetera, eccetera. anche comunque, cioè nel senso, cioè comunque anche gruppi di presenza, nel sì, senso, sì. Cioè, un gruppo, un gruppo, un gruppo che gira su Giamendo. Sì. Quindi uno dice, vedi, un una gruppo sorpresa, su, una su Giamendo, un sorpresone. E in, beh, passato, fa piacere, in passato, poi. Io già avevo passato in passato dicendo, no, che questi qui erano basicamente forti. Erano dei un gruppo, forti. Un gruppo forti, formato da quattro donne. Dai. Quattro donne. Dai. Siccome a noi ci piace delle nuove crystals, delle nuove la parte artistica delle donne, qualsiasi sì. essa sia. Sì. A noi ci piace tutta. Beh, quando però... canta, poi voglio dire, una donna col microfono. Una donna col microfono in mano, cioè il simbolo più bello al mondo. È sì. un bel simbolo di... No, non voglio essere volgare, perché lei già sta pensando alla volgarità. Io no. Io non penso invece. Io penso alla voce. Io stavo a dire la bella alchimia che si crea. Cioè, certo, nel senso, certo. cioè, quelle cose belle... Poi lasci la fantasia, stiamo parlando d'amore, lasci sì, che la gente sì, abbia... bella virilità femminile. Sì, esatto. Oh, allora, che dici? Questa va bene, dai. Queste tre, quattro donne... A un certo punto, mentre io e lei stavamo smanettando in questo momento su Giamendo, abbiamo sì. visto che erano diventate tre. Sì. E quindi questa è stata la domanda però, che ci siamo fatti per tutta la successo. Però abbiamo scoperto anche che, oltre a essere state passate in passato su MTV, sì, un po' di anni MTV, però utilizzando licenze, ripeto, Creative Giamendo. Commons, ma non è la prima formazione, perché c'è stato i Maniscalco Maldestro che hanno fatto sì. lo stesso percorso, i Rain o i Luna Raido. Gruppi che ricordiamo che noi abbiamo già trattato in passato, ecco. Però loro lo hanno fatto. E allora uno dice, se sono stati su MTV un senso c'è, e poi scopri che quel senso a volte è da trovare. Adesso hanno partecipato alla selezione tramite internet web. Sì, la selezione web in cui si poteva accedere, in cui c'era anche la sorella di una conoscente di Facebook, no, nel senso è un'altra, presenza femminina importante che ha partecipato alla selezione sì. per Sanremo 2012 giovani, sì. comunque parte web, cioè gli sì. artisti che vengono dal web, in teoria, che poi leggevo ultimamente che sì. era nata, comunque sì. vabbè, lasciamo perdere, perché dicono che è la nuova categoria di questo sì, Sanremo sì. show. Comunque l'abbiamo trovati che hanno partecipato insieme a Massimiliano Vado e ma restaci tu vai ma restaci Massimiliano Vado, cerca il bravo. Se io non cerco il bravo qui, sta in mezz'ora che parliamo. Allora, ho sentito, abbiamo dovuto sentire per forza un pezzettino, perché anche questo comunque è un brano fresco. È il bravo appunto della selezione per Sanremo Giovani 2012. Sì, abbiamo visto che è stato pubblicato il 15 gennaio. E siamo rimasti a bocca aperta. A bocca aperta. Sì, soprattutto per la cosa che erano in tre, in quattro. Ma al di là di quello, proprio musicalmente noi siamo rimasti a bocca aperta per le Millionaire Blonde sì. che ci presentano sulla terra. Sulla terra. Poi la commentiamo. Con Massimiliano Vado, Vada. Non è come dici te, perché io alla fine lo so quello che faccio, quello che non faccio. Tu che cosa c'entri? Non è perché sei bionda che capisci tutto quanto. Dormi. C'è luce ma tu dormi. Ho inventato un programma geniale fatto apposta per me. Sogni. Rubi nei miei sogni. Prendi quello che non riesci a trovare nei ricordi che hai. Ti aspetterò quando il buio scenderà sulla terra, quando il peso della sveglia sarà ancora insopportabile, camminerò sopra i fili del telefono, aspettando di cadere un'altra volta nello stesso errore. Yes. Iglesia. È Giulio Iglesia questo. Sì, sì, sì. Tutto il mio stacco di Tatteo. Nemmeno Vasco Rossi poteva pensare a un arrangiamento del genere. No, vabbè, fantastico. Guarda, no, no. Un gruppone. Un gruppone, sì. Che sono rimasti in tre. Un gruppone che io spero di partire presto via dalla terra. Una se la sono montata. Sì, secondo me. Sì, nel senso. Cioè, no, ma obiettivamente la domanda è questa, la domanda è questa. Loro erano quattro, e ne sono certo, perché l'ho visto, in fotografia erano quattro. Perché te sei fatto il numero uno. Sì, sì, sì, no, guarda, io le ho passate con Se ne va quando uscivo con Se ne va. Se ne va, e io gli per far finta. No, io gli augurai di rimanerci anche all'epoca. Adesso hanno portato anche Vago. E se le vedremo pure a Sanremo, non è che. No, non è detto. E io invece le spinga a sto punto. E provo a promuovere. Ho spunto, ho spunto. Signori e signori, signore. È stato fantastico. Buonanotte a tutti quanti. Ricordate, un'altra Radio Roma, ognuno con il suo, ognuno con il suo esercito. E noi rompiamo il culo a tutti. Come al solito siamo qui per stupirvi e come al solito speriamo di trascinarvi verso un gorgo, che è quello di un'altra Radio Roma, che è quello di avere con noi tanta gente che ha voglia di ascoltare musica e divertirsi in argomenti un po' più o meno frivoli o un po' più o meno seri, a seconda di come uno li voglia vedere. E, mentre cerco il jingle di conclusione e poi passo alla buonanotte, ringrazio tutti quelli che fino ad oggi hanno ascoltato questa trasmissione, sostenuto la trasmissione. Ringrazio gli artisti che hanno scelto un sistema di licenziare la musica in maniera diversa e quindi permettono a noi di poterla trasmettere. Invito a passare sempre buona musica. E dico agli ascoltatori di Fuso Radio che qualora volessero riascoltare questa trasmissione possono scaricare il podcast direttamente su Fuso Radio. Direttamente da lì, per avere sempre un pochino di compagnia nella vostra macchina, dai. Esatto. Oppure quando fate jogging o quello che fate. Fa quello che te pare, se no esatto. Devi mettere tanto uno, se lo mette sempre. È una trasmissione a tempo che decidi tu. Sì. Siccome questa è una radio che parte sempre in quinta, perché è una radio che sta avanti, sì. Nell'amore il conflitto c'è. C'è il conflitto nel momento in cui termina un amore. Chiudiamo questa trasmissione. Ciao, Scilla. Il jingle di un'altra Radio Roma for you, per il nuovo anno. Il jingle di un'altra. Io aggiungerei anche for you, per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Una radio a caso. Il jingle di un'altra a caso. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma. La più grossa radio web. Per il nuovo anno. Un'altra Radio Roma, la radio che ti manda su un altro pianeta. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Roma. Roma. La più grossa radio ti manda su un altro pianeta a caso per il nuovo anno.